Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera dedichiamo il nostro programma a un piccolo villaggio, ma molto importante in Lombardia. Il villaggio è quello di Crespidadda, un villaggio che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, inserito ormai da 1995 in questo elenco del patrimonio dell'umanità. Perché è stato inserito in questo elenco? Perché è importante questo villaggio? Perché sono importanti i Crespidadda che hanno creato questo villaggio? Ne parliamo con Sandro Danesi. Buonasera, professor Danesi. Buonasera. Sandro Danesi. Buonasera. È titolare del laboratorio di economia locale dell'Università Cattolica a Piacenza e ha seguito, segue, studia gli imprenditori italiani, quanti hanno portato soprattutto all'interno della realtà sociale e economica italiana un grande messaggio, da Leopoldo Ginori ad Adriano Olivetti. E tra questi imprenditori ci sono i Crespidadda, a cui è dedicato due libri, Grandi uomini con grandi idee, di Crespidadda, edito da Mattioli due anni fa e ultimamente Un diario di viaggio alla scoperta di questi grandi uomini con grandi idee, edito da Olos. Un diario di viaggio che è un po' le istruzioni per l'uso, per conoscere questa realtà. Allora, a chi non conosce Crespidadda, in sintesi, professor Danesi, che cos'è questo villaggio? Si tratta, Crespidadda è un villaggio operaio che intanto in Italia è l'unico riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, quindi questo è un valore molto importante. E il lavoro su questo villaggio, quindi questa guida turistica, trova proprio la sua origine nella consapevolezza di quanto in tutte le epoche vi siano state persone che hanno contribuito a fare bella l'Italia, con iniziative imprenditoriali, ma anche sociali e culturali, che sono degne non solo di nota, ma anche proprio di essere conosciute e visitate. E Crespidadda, con il villaggio operaio e la famiglia Crespi, ne sono proprio una testimonianza, non a caso riconosciuti appunto patrimonio dell'umanità. Ecco, il villaggio sorge sulle rive dell'Adda ed è proprio un villaggio, diciamo, che a quel tempo era innovativo, risale alla fine dell'Ottocento, aveva la fabbrica, aveva le case, aveva l'ospedale, l'ambulatorio, il lavatoio, la scuola, fino anche il cimitero. Era una realtà completamente diversa dalle tradizionali immagini delle fabbriche dell'Ottocento. Esatto. Crespidadda, come certamente anche altri villaggi operai europei, rappresentava il centro di aggregazione, il centro del lavoro e il centro quindi di aggregazione della vita e della vita sociale. Infatti di questi grandi personaggi, di questi imprenditori, ma anche poi di tutti i collaboratori, di tutti i dipendenti, gli operai, di tutte le famiglie che collaboravano, appunto spesso sono conosciuti soltanto appunto gli aspetti della vita lavorativa e meno nota, ma è importante per da essere indagata la loro vita personale, la storia, la famiglia, le relazioni che questi grandi imprenditori hanno avuto con questa nascente comunità e quindi tutti quei servizi che sono stati realizzati proprio per soddisfare le esigenze di questa comunità. Quindi, come diceva lei, le scuole per i bambini, per i ragazzi, i figli degli operai, tutta una serie di servizi che per quell'epoca erano veramente innovativi. Infatti la domanda che ci siamo un pochino posti e che mi sono posta è anche quella di capire quanto nel passato ci sono stati investimenti importanti e innovativi, per poi avvicinarsi anche ai nostri giorni e capire anche gli investimenti di oggi quanto hanno un contenuto di innovazione o quanto gli investimenti anche di oggi possono essere comunque anche un recupero delle iniziative del lontano passato. Ecco, indubbiamente questo villaggio è una realtà che appartiene alla storia, una storia fatta di grandi fabbriche, di un'industria tessile fondata appunto su distese di telai che occupavano interi capannoni e che adesso appunto è praticamente scomparsa. Però cosa resta di questo villaggio? Perché è anche un'attrattiva turistica? Perché merita il viaggio andare a vedere questo villaggio, professor Danesi? Merita il viaggio perché oltre a poter visitare il villaggio e vedere, quindi toccare con mano cosa è stato realizzato circa 150 anni fa, sono molto importanti anche proprio le testimonianze e gli aspetti immateriali delle opere realizzate da questa grande famiglia di imprenditori e quindi quelli che erano gli ideali del lavoro del fondatore, di Cristoforo Benigno Crespi e poi di suo figlio Silvio, ideali del lavoro che fortunatamente questi grandi imprenditori hanno scritto. Infatti nella famiglia Crespi il fondatore e poi i figli aveva insegnato ai figli a tenere dei taccuini giornalieri dove poter riepilogare appunto la giornata lavorativa, imprenditoriale, e in certi casi in questi taccuini c'erano anche riferimenti più di carattere sociale o anche filosofico. E grazie agli scritti che sono stati conservati, su questi scritti e quindi su questi ideali si possono oggi fare delle riflessioni importanti, scritti e ideali che sono di estrema attualità ancora oggi. Ecco, di attualità, perché in questo periodo sta tornando un fondo di attualità, quello che si chiama ormai welfare aziendale, cioè un'azienda che, superando quello che era un'immagine un po' paternalistica del passato, però guarda i propri operai come una realtà che va al di là della stretta fornitura appunto di servizi o di lavoro, per considerarli nella loro dignità e quindi dei loro interessi, quindi l'assistenza sanitaria, quindi le agevolazioni per i bambini, quindi gli asili nido all'interno delle imprese. In fondo questo welfare aziendale di oggi ripercorre un po' quello che era stato profeticamente voluto alla fine dell'Ottocento da queste famiglie tipo quella di Crespi d'Adda. Sì, è proprio una testimonianza che anche oggi iniziative dei grandi imprenditori di oggi certamente sono iniziative importanti, ma possono trovare proprio radici nel passato, nel lontano passato. Le leggo una brevissima frase di Silvio Benigno Crespi quando parla appunto del tema della salute, e dice, queste sono le sue parole: la salute dunque deve essere il primo oggetto di studio e di cura dell'imprenditore. E poi anche altre frasi dove appunto evidenzia il rapporto anche proprio tra la grande industria e la responsabilità degli imprenditori. Infatti, parlando proprio di questi aspetti, scrive questo: la responsabilità di quegli imprenditori è dunque incalcolabile, come immensa la latitudine del loro dovere, il quale consiste nel conciliare le necessità dell'industria con le esigenze della natura umana, in modo che i progressi dell'una non siano mai per inceppare lo sviluppo dell'altra. Sono frasi, concetti e ideali ai quali ho provato a domandarmi, e potremmo domandarci oggi, quanto questi concetti sono certamente ancora attuali e come poterli esplicitare, o meglio ancora, quali sono i casi di oggi che esplicitano questi grandi concetti, appunto sono i grandi casi di successo dell'imprenditorialità italiana in Italia e nel mondo. Ecco, è una visione appunto che è quella che era comune ad imprenditori, che è stata comune, lei appunto cita per esempio Adriano Olivetti, che è spesso citato come esempio appunto di un'imprenditoria aperta, un'imprenditoria che vede la fabbrica come una comunità e non solo come un luogo di lavoro. Ecco, in questo senso si può pensare ad esperienze un po' all'avanguardia, ad esperienze a cui poi non segue una realtà sociale complessiva, però appunto testimonianze come quella di Crespi d'Adda, che appunto ricordiamolo, può essere visitato anche se ormai le case sono abitate da persone, diciamo, che non entrano più nella realtà della fabbrica, non esiste più come realtà di fabbrica, ma esiste come realtà architettonica, e si può visitare la chiesa, si possono visitare le scuole, si può visitare si possono percorrere le strade di questo villaggio. Ecco, tra l'altro si può ricordare che il plastico, un grande plastico di questo villaggio, era stato proprio messo in uno dei padiglioni dell'Expo 2015 ed era un esempio di come l'Italia aveva affrontato il tema dell'industrializzazione. Ecco, in questa prospettiva, ecco, il suo libro è anche un invito alla visita, anche di luoghi vicini, perché poi non c'è solo Crespi d'Adda in questa realtà, un invito a scoprire una realtà italiana che non è solo le grandi città d'arte, ma è fatta anche di villaggi, di borghi, di realtà appunto che meritano di essere conosciute. Esatto, il centro è appunto il grande attrattore turistico per il turismo culturale, per il turismo scolastico, è appunto Crespi d'Adda, ma oggi non si può non tenere in considerazione degli altri grandi attrattori culturali, paesaggistici, artistici, anche enogastronomici del territorio circostante. E infatti nel diario di viaggio, in questa guida turistica, si fa centro sul perché una visita a Crespi d'Adda, ma si evidenziano anche con delle schede sintetiche quelli che sono appunto gli altri grandi attrattori dell'isola bergamasca, dei comuni che compongono il territorio bergamasco, al fine di evidenziare l'aspetto che oggi le destinazioni turistiche cercano di tenere sotto osservazione, cioè il tema dell'identità dei luoghi, dell'autenticità dei luoghi. Quindi in qualche modo il villaggio Crespi, forse come ha fatto il suo fondatore che teneva vicini e stretti i suoi operai e le famiglie dei suoi operai, oggi il villaggio Crespi deve in qualche modo tenere vicino a sé anche tutti gli altri grandi attrattori dell'area bergamasca al fine di promuovere e rendere sempre più riconoscibile questo porzione di territorio e con questo grande elemento di attrazione. Poi intendiamoci. Crespi d'Adda è patrimonio dell'umanità, quindi in qualche modo è nel mondo, è del mondo e quindi è importante pensare, ipotizzare politiche di attrazione di turisti da tutto il mondo. Certo, e peraltro per il suo libro si parla appunto di Crespi d'Adda, ma anche di altri luoghi come caratterizzati per l'arte e la cultura, i fiumi, i laghi, la cultura e l'ambiente, i prodotti e le produzioni tipiche, le terme e benessere, quindi ci sono elementi per rilanciare anche un turismo di qualità, un turismo consapevole, un turismo di benessere, ma anche di cultura. E io ringrazio Sandro Danesi di essere stato con noi questa sera. Ci ha parlato di Crespi d'Adda, un villaggio a meno di mezz'ora da Milano, un invito appunto a visitare questa realtà che fa parte, appunto è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, non a caso, perché è qualcosa che gli italiani, i grandi imprenditori italiani del passato hanno saputo realizzare ed resta ancora una testimonianza. Grazie a Sandro Danesi abbiamo parlato del suo libro Diario di Viaggio, la scoperta di grandi uomini con grandi idee, Crespi d'Adda, edito da Olos, sono 162 pagine per 9,90 euro. Ringrazio anche Carmelo Loricella in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. L'appuntamento Economia in Pagina è per settimana prossima.